Tu pute. Shaloma seconda. Siete posto dietro? Tutti okay. Zitti? Via. Amore, vai avanti. Ai amore, amore. Amore, ai amore. Ai amore, amore. Gesù Cristo, cuore sante. Ai amore. Salvatore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e Cristo lune sole, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e Cristo tanta gente. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, Vergine Santa Porturente, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, Vergine Santa Porturio. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e per nuovo Gesù chiamò. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, torna di Gesù buona fortuna. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e nell'altro fuoco d'ora. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e nell'altro fuoco d'ora. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, Regina ancora nata. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, Regina resto mondo. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, questo mondo si è mutante. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e vorremmo ben servire. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, alla fede cristiana. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, e risponde a cui ti chiama. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, rispondi quel chiamato. Ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, ai amore, corpo santo laureato. Ai Oh. Spirito Santo Salvatore. Ora si cambia per tirare il coppo.